and I'm a Shaolin, but seeing equilibrium, I'm a sanctuary, you baby. You are my sanctuary. E io ti sposerei, Miranda, vuoi prendermi per marito? Io te voleremo e ci basterà quella stagna rubata alla standa. Non avremmo bisogno se non di cash, del nostro travel around the world on the seven seas. And if I'm an ash, you are my reality. Cos'è reale? Lori, sono io. Tu vuoi la carne mia o vuoi il mio oblio? Tu sei il mio real che non riesco ad avere. Un momento insieme, please. Un momento. Non me mento. Un momento vero e non me mento. Cerco l'assassino di me. Te dentro me ma non c'è. Quell'assassino sono io. Vedi che non ti ho preso come perché c'è la cosa più bella che c'è. Lui la stonata storia che va contro me. Te anche se è un amico e anche se lo stimo, non voglio più avere nessuno vicino. Se ti ho perso, vedi questo verso, senza te si fa perso. Gentleman, lasciami la mano. Io, lasciami la mano. Toglimi la mano. Lui ti deve lasciare la mano. Io non sono povero, anche se lo fossi, vorrei soltanto te. E ti stringerei, ti correrei, ti infonderei la voglia di correre con me, di crescere col coraggio. E sarei meglio della spada nella roccia stilata con me degno. E questa è una rapina a mano armata. Chi ha sfidato questa spada sono io, anni fa, e ora l'ho persa nell'oblio. Vedi, ho una spada in mano che è una lady. She's go for the money, is crazy, cause you ever don't ever eat the infamity over the hill, hill, hill. She's the best evil chronic. She have a friend with a friend, cause I'm a friend and I'm a Rolex. Man, please understand my cash me cash. Cash me cash for her. And just the cash me cash my pain. Just pay me the way and take all my breath away. Cause I'm an ever real. This is a real talk. This is a real for. This is my chronic. This is my running. But I'm a crying like a Piero. If I'm not a hero, never you have or man. Never me, man. They say me this is right. You were right for me, cause desire me, cause he's your friend, say right. The zero is the translation of my stars. You my stars, baby. I want to translate your desire in a real meaning. The mirage of a miracle ear of you is just a black miracle. Yo, the devil coming to my little eyes. Yo, my big surprise. For you will the shine when I'm far with you. For you and you for me. Lady, siamo fatti per la sweet things. Non preoccuparti che studi e tira ancora tipo stime qui. C'ho le palle di Benicio del Toro, quindi ci butta sul mio cazzo quando è duro, puro. Io sono un P, faccio paura tipo Benicio.